Signore del cielo, Signore del grande universo, che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire. Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi, e adesso ti avremo per sempre, e adesso ti avremo per sempre. C'è qualcuno dei miei ex in sala? No. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Lo sai qual è il problema? Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. È l'infanzia e quindi i genitori. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. I genitori li ricordiamo soprattutto perché ci generano i primi disagi, come ad esempio l'ansia, l'angoscia, il sovrappeso, le fisse. Io per esempio ho la fissa di fotografare i fornelli del gas prima di uscire di casa per vedere se li avevo spenti veramente. È brutto, eh? Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Tu ce l'hai i genitori? Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Una volta che c'hai i genitori non ti può andare bene. Guarda che ti faccio questo ballo col... Candy Candy non ce l'aveva i genitori. Quella era stata allevata da Miss Pony e Suor Maria, un mix pedagogico che si avvale della collaborazione tra un'anziana misantropa in sovrappeso e una suora. E neanche a lei gli è andata bene. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che sì, comunque a un certo punto tu la devi superare questa cosa dei genitori. Tu devi andare avanti, devi sviluppare le tue nevrosi personali. Per esempio, sono quelli che come nevrosi personale hanno il fatto che loro coltivano l'orto biologico sul davanzale di Viale Marconi, con sotto il traffico. Oppure ci sono quelli che somatizzano e quindi sviluppano delle allergie che poi dopo per curarle devi andare a prendere certe erbe sugli anelli di Saturno. C'è chi pratica la zumba o altre bizzarrie di cui comunque l'adesione al Movimento 5 Stelle è soltanto l'ultima delle manifestazioni delle nevrosi. La prima è l'amore per l'arte. Ecco, se c'hai quello, i tuoi hanno fatto proprio un bel lavoro. Tu non hai un disagio, tu sei il disagio. Tu non hai un problema, tu sei il tuo stesso medesimo problema. Allora guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che ti faccio questo ballo col mio corpo. Guarda che sì, comunque tu veramente, no, la devi superare questa cosa dell'infanzia. Devi andare avanti nella vita, nel tentativo di essere felice. Sempre che non incappi negli altri, perché gli altri sempre chiedono, fanno, brigano, rompono, spaccano, bisognano, tu ti devi arrabattare a sopportarli mal volentieri e allora diventi uno che alla fine ognuno fanno come può. Si vive male. Arriverà un grande culo gigante che ci inghiottirà, un grande, grosso culo gigante che ci inghiottirà. Adesso fingiti morta. Era così bella. Brava! Magra, una ragazza che ha sempre fatto tanto per la sua comunità. Fingiti morta! La gente che ti circondano, ovvero l'altro da me, che chi t'ha chiamato? La prima compagine di gente che ti circondano t'attanaglia da quando vieni sbattuto sulla battigia della vita. E sa gente sono la famiglia. Fingiti morta, fingiti morta. La famiglia è un'invenzione delle case farmaceutiche. Una forma di convivenza coatta generata affinché tu sviluppi dei disturbi psicosomatici, così poi dopo la casa farmaceutica ci fai soldi sopra, fingiti morta. Comunque la famiglia è anche una cosa bella, perché così non sei il figlio di nessuno e questo non è poco. E poi tutti i componenti della famiglia sono uniti da un filo sottile, invisibile, bellissimo, pieno di cose in comune, bellissimissime e genetiche, come ad esempio la microcitemia, la luce valgo, oppure tutti col diabete. Fingiti morta, fingiti morta, fingiti. Ma vediamo quali sono i tradizionali componenti di un nucleo familiare. La madre. La madre è quella signora che alla fine le dai tutte le colpe. I maschi ci vanno d'accordo per il fatto delle tette. Le femmine no, no, ci litigano in continuazione. No, no, poi ci sono pure quelle che ci vanno d'accordo. Infatti vanno al mare con la madre, in palestra con la madre, in piscina con la madre, al supermercato con la madre, al mercato con la madre, dal dottore con la madre, dallo psicologo con la madre, dallo psichiatra con la madre. Vi dovete fare una vita. Il padre è quel signore che alla fine gli dai tutte le colpe pure a lui. I maschi ci vanno d'accordo perché ci giocano alla PlayStation oppure ci guardano la televisione. Le femmine gli estorcono il denaro con le moine tipiche che si tramandano di madre in figlia a suffragio della tradizione che vuole le donne in fingarde, subalterne e truffaldine. I fratelli e le sorelle. I fratelli e le sorelle sono quelli come te, ma o più grandi o più piccoli, che ti ostacolano dall'ottenere per intero tutta l'eredità che ti spetterebbe di diritto, essendo che tu sei quello meglio. Infatti, da qui il detto fratelli coltelli, fingiti morta. Comunque. Nella famiglia uno poi trova riproposto in piccolo tutto quello che incontrerà nell'universo mondo, ed è proprio quando ci si accorge di questo mistico parallelismo che tendenzialmente vengono fuori i gruppi, come ad esempio i Gazzosa, che erano tutti e tre fratelli quell'anno che vinsero Sanremo. Stai con me forever, quella che non vedo più, bimba che correva colorandosi di blu. Stai con me fino a quando lo vorrai, fino a quando lo vorrai, fino a quando capirai. Distrattamente vedo la mia vera età riflessa nello specchio, riscopro la metà di me che cresce ancora, e intanto lei lo sa che cosa voglio dire e poi comprenderà. Ripenso a me da sola, senza di te mai più, sinceramente affranta, pericolosa assenza. Ti vorrei, stai con me forever, quella che non vedo più, prima che correva, colorandosi di blu. Brutto! Comunque, no, ci sono pure alcuni che la famiglia gli piace, come ad esempio i componenti delle cosche mafiose oppure i bambini di Satana. Comunque non è che con questo uno vi vuole dire quello che dovete o che non dovete fare. Ognuno faccia quello che ritiene più opportuno fare, però lo capite che al mondo siamo tanti, le risorse sono poche, le case sono piccole. No, no! Fate come vi pare, figliate pure liberamente, anche perché per ogni anticoncezionale preso nel tentativo di non procreare, dall'altra parte del mondo una babysitter precaria muore. Oddio, ma che ha lasciato acceso il telefono? Oddio! Oddio, dov'è? Oddio mio! Scintore fa vedere il telefono. È Mario Bruco. Mario Bruco era un bambino, mezzo Mario e mezzo Bruco. E tutti quanti lo prendevano in giro perché, ovviamente, era mezzo Mario e mezzo Bruco. Mario Bruco, per camminare, a causa del fatto che era mezzo Bruco, si doveva strusciare sul pavimento molto spesso e quindi andava in giro sempre sporco. E tutti quanti lo trattavano come una persona sporco. Mario Bruco andò dalla fata che trasformava le persone in animali e gli animali in persone, chiedendolo di trasformarlo in Mario o in Bruco. Ma la fata non aveva le mani e quindi non poteva tenere la sua bacchetta. E Mario Bruco rimase per sempre mezzo Mario e mezzo Bruco. Grazie per aver scelto le favole al telefono. Dici? Ho capito. Una volta che hai finito di tribolare con la famiglia, che lo dovresti avere capito come si fa a stare d'autunno sugli alberi le foglie, ecco che hai subito a che fare con l'altro da te che neanche te è parente e chiama. Ecco, questo altro da te noi lo dividiamo in poche ma semplici categorie, per il fatto che meno siamo e meglio stiamo. Prima categoria: il problematico. Il problematico c'ha le allergie, il senso di smilla per la neve, la sciatica, c'è la psicosomatica, sente freddo e s'ammala, sente caldo e sviene, e mentre lo fa ti guarda con l'occhio col tic nervoso che mi sa che è pure un po' colpa tua. Mia? Il tranquillo. Il tranquillo sta sempre tranquillo. Sei tu che sei agitato. Lui sta tranquillo. Sei agitata? Ma perché? Lui sta tranquillo, tu ti agiti. Ma perché? Lui è tranquillo, lui sta tranquillo, lui va tranquillo. Speriamo sulla pontina contromano. Terza categoria, il sincerone. Il sincerone ti deve di tutto, per esempio che i tuoi non sono i tuoi, che lui non è lui, che la donna tua si fa le storie con un parente tuo stretto, che però non è parente tuo perché tu sei stato trovato per terra dietro alla standa, che ti sei ingrassata rispetto all'altro ieri e che il Molise è un'invenzione dei cartografi. Ecco, grazie tante. Adesso che mi hai messo a parte di tutte queste verità, fai così: vai a mescolare l'amaro Averna coi barbiturici. Altra categoria, l'ottimista, l'ottimista. Dio, ce ne scampi. Vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Piangi? Beh, vabbè, tesoro mio, ma pensa se non avevi l'occhi, non era peggio? Non hai i soldi? Beh, vabbè, tesoro mio, ma pensa alle prime tribù che non battevano neanche moneta, ma non era peggio? Vivi nella precarietà? Vabbè, tesoro mio, ma allora i primi fenici che vivevano ignorando l'elettricità, ma non era peggio? Ho capito, là, se non si possono avere problemi, ce ne andiamo a casa, sipario. Ecco, ultimo personaggio preferitissimo mio: la dietrologa. La dietrologa è un'amica tua che vede sempre il marcio dietro a ogni cosa, soprattutto dietro a ogni cosa che tu le racconti. Essa sospetta, unisce i puntini, deduce ed elabora la teoria che a te nessuno ti vuole bene. Ecco, brava, deducila la teoria, unisci i puntini che ci trovi scritto brutto mostro, mostro, mostro, mostro, mostro, mostro, mostro. Comunque io certe volte, no? M'accanisco come i proci con la povera Penelope. E non va bene. No. Non va bene. Penelope. Penelope la mattina faceva la tela, la sera la disfaceva. La mattina faceva la tela, la sera la disfaceva. La mattina faceva la tela, la sera la disfaceva. La mattina faceva la tela, la sera la disfaceva. Poi scende in salotto. Tutti i proci. Tutto pieno di proci, quello sdraiato, quello seduto, in cucina, i piatti, le ancelle tutte nude, le orge, è impazzita la casa, è impazzita Telemaco che non torna, il cane Argo, la balia, so 20 anni che stai aspetta uno che si è fermato da tutte le peripatetiche del Mediterraneo, oh, oh, è però, ditevele le cose, comunicatevele le cose, sì, ma no adesso, all'ultimo capitolo dell'Odissea, le cose ve le dovete dire prima, perché non è un pianto e una mangiata, chi muore giace, chi resta si dà pace, le cose ve le dovete dire prima, perché quando comunicate possono succedere due fatti, il primo, che vi capite e tutti a scrivere le poesie sull'amicizia che ci regala il gusto pieno della vita, la seconda, che non vi capite, e l'altro subito ti genera i sentimenti brutti sono dei doni, quindi in quanto tali è importante che uno se li tenga stretti nei pressi di sé, e infatti grazie ai sentimenti brutti noi possiamo allontanare la gente che ci circondano, che altrimenti ci vivrebbe nei pressi, disturbando il concetto di bolla prossemica, che se io vedo la tua non si capisce perché tu la mia non la vedi, perché tu la mia non la vedi, no tu la mia non la vedi, tu la bolla prossemica mia non la vedi. Ma chi è? Aspetta. Pronto? Grazie per avermi scelto di favore al telefono. No, Panino. Panino era un bambino a forma di panino, con uno strato di formaggio, uno strato di hamburger, uno strato di pomodorino, gli occhi, le orecchie, il naso, le braccia, le mani, i piedi e le gambe. Panino però, proprio per la sua forma fisica, proprio perché non sembrava per niente un bambino, veniva preso in giro dagli altri bambini. Un giorno Panino disse: forse se trovassi un gigante che mi mangiasse, forse alla fine di questo panino ci sarebbe un bambino. E allora cominciò a cercarlo. Gigante? Gigante? Dove sei? Gigante? E un giorno lo trovò. Il gigante, visto Panino, gli venne fame e lo morse finché non lo finì. E sotto quell'imbottitura di Panino non c'era un bambino. C'era un panino. E Panino non ritrovò mai più il suo equilibrio psicofisico, anzi, perse la vita. Grazie per aver scelto le favole al telefono. Dici? Era un panino. Era un bambino. I sentimenti brutti, sì. Sì, i sentimenti brutti comunque non li puoi mai provare, perché sennò fai brutta figura, poi dopo la suora ti rimprovera. Oh, guarda che questo non si dice, sai, e quell'altro non si fa, e guarda che Gesù ti vede piange, eh? Non li devi provare i sentimenti brutti, non li devi provare i sentimenti brutti. Che cos'è questa rabbia? E manda giù. Ma che cosa? Che quella Maria De Filippi negli anni ci ha fatto i programmi sui sentimenti brutti, che quella tua cugina ti ruba il marito e tu la devi perdonare davanti a tutti, essendo che sennò fai brutta figura al paese tuo, che ti vedono tutti. Pensa che ti vede pure tua zia dal Canada, essendo che c'è andata anni fa con la valigia di cartone, dice la devi perdonare. La devi perdonare tua cugina, la devi perdonare. È parente, manda giù, la devi perdonare, manda giù. Allora adesso basta con questa cosa del perdono, che è un concetto cattolico, che va bene che Papa Bergoglio e qua e là, e pure i sacramenti, per il fatto che i sacramenti prevedono certi regalini in oro, che oggi domani li squagli, ti ci compri la droga. Non la devi comprare la droga, no alla droga, non te la devi comprare la droga uccide, la droga ammazza, no alla droga. Allora adesso basta, perché io con i soldi miei ci faccio quello che mi pare e mi ci compro la droga, poi basta con questa cosa del perdono, che è una cosa della Prima Repubblica, quindi datatissima e di matrice totalmente democristiana. Democristiano adesso arriva di moda, come quando c'era Corrado della corrida, che la gente si sentiva autorizzata a esporsi al pubblico ludibrio, essendo che il popolo bue. No, guarda, adesso basta, guarda, adesso tu dici l'ultima cosa e poi te ne vai, dai. Samerona 2015, è estate, tutti cocktail. Vedi che poi fa. Ma vabbè, Comunque, adesso per quelli che non vogliono schifare i sentimenti brutti e passare direttamente a questa cosa del perdono, ecco un elenco di sentimenti brutti da usare. Allora, primo sentimento brutto, l'odio. L'odio è un sentimento brutto che però bisogna avere tante energie per provarlo, e infatti la storia vuole che l'odio accechi. Allora io dico, però andiamoci piano con queste cose della salute, che oggi ci siamo e domani portiamo il pigiama di legno. Secondo sentimento brutto, la vendetta. La vendetta è un sentimento brutto che riguarda certe maliarde del passato, come per esempio Lucrezia Borgia, no, oppure pure la vecchiona di Beautiful, che era invidiosa di Brooke, essendo che Brooke era tonica, e infatti poi Brooke andava in palestra. Ah, terzo sentimento brutto è la paura. La paura è un sentimento brutto, però è utile. Infatti, grazie alla paura, uno non si lancia in delle imprese pazze, tipo fammi un po' vedere come funziona il forno, e poi muori arsa viva come Giovanna d'Arco, coi capelli a cofaniello che non te si può guardare. Ultimo sentimento brutto, la rabbia. E subito ci viene in mente il panda. Il panda veramente vive il disagio della rabbia repressa, essendo che il panda è un mammifero e però mangia solo il bambù, e il bambù gli genera la fiacca, perché il panda è corpulento, il bambù una volta levata la goccia che ci rimane? Niente. Oh, poi il bambù ci mette 8 anni per crescere. Il panda, se non trova il bambù, gli viene la depressione, comincia a vagare come Orlando a Roncisvalle. A esso problema il panda aggiunge il fatto che, siccome è fiacco, dorme, e siccome non trova il bambù gli viene l'acidia. Dice l'uomo, lo vuole sterminare il panda. No, tu ti devi mangiare i salmoni, ti devi mangiare i tonni, la scamorza alla griglia ti devi mangiare, no che te mangi solo l'incannucciata del giardino di Sia Maria. Lui dice no. Allora uno dice, vabbè, dai, preserva la specie, riproduciti, copula, accoppiati. Al panda non gli va. Al panda non gli va. Il panda non vuole. Si arrogna, si scoccia. Al panda non gli piace nessuna. Lui non si appassiona alla copula. Lui se la deve andare a capare e si schifilta. E poi alla fine, sbuffando, va, prova, tenta di incapricciarsi di una, perché poi ci si deve sperticare sopra. Ma al panda non gli va. Va bene, lo fa. Ma il panda femmina è ritroso, e di 3 cuccioli che fa, 2 muoiono e ne rimane vivo solo sempre uno. Allora tu, il panda, non mi devi guardare con la faccia del pigiama, perché allora a me mi sembra che mi guardi così perché vuoi che io ti do i soldi, perché se no tu e sto panda ti estingui. Tu non lo devi fare, tu ti devi accoppiare, tu ti devi mangiare i cristiani, tu ti devi lanciare in una copula feroce davanti alla foto di Darwin, oppure tu ce lo devi dire che tu ti vuoi suicidare. Tu ce lo dici, tu chiami a Teleton e dici io m'ammazzo, quanto è vero il sovrappeso, io m'ammazzo. No, no, il panda, guarda, senza che ti innervosisci, tu le cose le devi fare normali. Normali, no, che di tutti gli animali sei l'unico che porta la maglietta. Ma che cos'è? Ma usala la rabbia, ma preservala la specie, che senza la rabbia tutti giù a soccombere e a votare i partiti moderati e a lamentarsi che qua e là la rabbia è importante. Perché grazie alla rabbia uno la mattina si alza dal letto e porta le cosce oltre l'ostacolo. E che cos'è? Oh. Ancora? E chi è? Che ti viene scelto il telefono? Partite con Nooters. Partite con Nooters. Era degli orsetti a forma di orso, ma che in realtà avevano dei corni. Allora, a causa del fatto che avevano questi corni, orsetti con Nooters erano spesso scambiati da tutti gli animali della foresta per arci o anche per cervi. Allora, gli orsetti con Nooters, stanchi di questa condizione, decisero che si riunivano in assemblea per prendere una decisione. E alla fine dell'assemblea, orsetti con Nooters decisero che andavano dall'uomo con le grandi forbici che abitava nel paese accanto. Una volta arrivati lì, scoprirono che il signore delle grandi forbici c'era, sì, nella sua bottega, ma era cieco. Allora gli dissero, scusi, signorino, ma se si può avere i forbici di tagliare i corna degli orsetti con Nooters? E lui disse, certo certo, adesso lo facciamo. Solo che, siccome che era cieco, cominciò ad agitare queste sue forbici nell'aria senza tagliare neanche un corno. E gli orsetti con Nooters rimasero per sempre orsetti e con Nooters. E grazie per aver scelto le favole al telefono. Dici? Ah, ciao. Comunque, allora sì, questo per quanto riguarda quando le cose vanno male, che l'altro ti genera i sentimenti brutti. Quando invece le cose vanno bene, attenzione, perché comincia la prossima avventura. Esso scatta l'amore. No! No! No, l'amore no! No! No! No, l'amore no! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! L'amore no! No! Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò. Ma da tutte quelle non ci defiliamo come Badoglio dopo la firma dell'armistizio. L'amore è una cosa molto importante, soprattutto per le persone pratiche nelle materie fondamentali della vita, come ad esempio i romantici, che la vita gli dà sempre un'occasione per andarsi a strofinare su un altro mentre la luna illumina i volti di entrambi e tu pensi che no, non ti sei depilata le ascelle. L'amore è una cosa bellissima che risale ai tempi antichi di milioni di anni fa, quando Didone s'era affacciata dalla finestra sua di Cartagine e guarda chi arriva! E arriva questo troiano nerboruto, carenato di cotanto padre a spalla, e lei gli dice: ehi, ehi, vieni qui, sì, vieni qui, ti do un letto, ti faccio le seppie coi piselli. E a lui non gli pare vero, ci rimane mezza eternità. E fino a qui tutto bene. Ma non cantiamo vittoria come i troiani davanti al cavallo di legno che dentro invece era ripieno di sfiga. La povera Didone vive l'amore tipico delle regine del Mediterraneo e tutto sembra andare bene fino a che un giorno Enea gli parte la ciabatta, deve andare a fondare Roma, il raccordo anulare, il pigneto. E allora addio, addio Didone, mi raccomando, le piante grasse sul davanzale, l'acqua, dagliene poca. E la povera Didone si fa ardere il corpo sulla pira infiammata che solo al pensiero ci viene l'agitazione del gamberetto. Questo perché l'amore, quando arriva, subito porta con sé l'abbandono sulle strade consolari dell'esistenza a mangiarsi un camogli mentre tutti ti copulano intorno. Questo perché l'amore è una cosa difficilissima, perché non solo tu l'altro gli devi volere bene e lui ti deve ricambiare back, tu all'altro gli devi volere bene soprattutto se ti fa schifo e quindi nei difetti. E allora stai lì e preghi Santa Ipicrate, protettrice della pazienza, perché te a questo che lo ami al contempo ti fa pure schifo a causa delle sue abitudini e del fatto che non è te né quello che ti saresti aspettata per decenza dal fato, e quindi dici: vabbè, mi abituerò, e nel frattempo speri nell'arrivo del tristo mietitore perché l'altro proprio non lo sopporti più e lui ricambia felicemente. Quando è così, dici che hai una crisi, allora gli amici si preoccupano ma fanno pure festa dentro, perché sperano che torni a berti le birrette e a puzzare con loro come prima di trovare un badante emotivo. La crisi della coppia consiste nel fatto che a uno dei due gli piace sempre un altro o un'altra, però l'altro o l'altra va detto che non hanno colpe, essendo che loro si aggiravano nel mondo, non è che potevano chiudersi in casa, infatti adesso copulano con quello con cui stai te. Ma non ci gettiamo da Castel Sant'Angelo come Tosca, che l'Ottocento va bene ma il melodramma non genera l'emancipazione. La crisi della coppia si può superare grazie a pochi simpatici modi. Primo modo, la generazione di un figlio, ma poi dopo questa crisi ricompare quando il bambino inizia a chiederti i soldi della fatina dei denti. Secondo modo, ognuno a casa sua quando ti incontro ti faccio vivere male. Terzo modo, esso scatta l'amore. L'amore è quello vero, quello in cui l'altro ce l'hai vicino, ma potrebbe pure essere un vaso, e però lo accetti, lo rispetti e ogni tanto gli dai pure una pulita, e lui uguale, e così via. Ognuno col suo pannolone antiurina, la dentiera nel bicchiere, a parlare male dei giovani, soprattutto dei figli fatti insieme, che fanno schifo, hanno ripreso da te, no da te, no da tua madre, no dalla tua, adesso dormi, ma dormi te, spegni la luce, spegni la te, buonanotte, buonanotte. Questo per dire l'amore, sempre che lo trovi o che ti trovi o che esista. Va bene, adesso basta perché devo fare lo spettacolo. C'hai fatto il cielo, c'hai fatto il mare, quando te pare, sai fa per tre a fa la terra. Ci ha indovinato chi ci ha azzeccato, meglio di te hai fatto bene tutto il creato, te sei sbagliato solo con me, solo con me, solo con me, solo con me, solo con me. Qui non si spiega, Signore Dio, che solo io devo pagare. Che t'è successo, t'eri stufato, t'eri stancato de lavorare, non t'era d'obbligo, non te veniva, si non t'annava, la savi Anna, la savi Anna, la savi Anna, la savi Anna, la savi Anna. Cuoro. Cuoro è uno spettacolo che parla di costume, di moda, di società, di bellezza, la bellezza, un argomento che ha tenuto i filosofi a discutere per anni e che questa sera Cuoro affronterà alla Carlona. La Carlona, in quel modo tutto italiano che all'estero ci invidiano, insieme alla pizza e alle sorelle Carlucci tutte e tre, pure Anna che faceva la giornalista. La bellezza, ovvero il concetto di ciò che è bello, ciò che è brutto, a noi ce lo dice la televisione, unica depositaria della verità, insieme al maggiordomo del Papa Vecchio, che infatti l'hanno mandato via. Oh, la televisione, per quelli che non lo sanno, è quella scatola davanti all'anziano di casa, si trova in tutte le case, a volte su una libreria, a volte su una mensola, a volte a tavola, al posto delle relazioni interpersonali. I protagonisti della televisione sono le persone coi problemi. Quei problemi, basta avere un problema, una compulsione, un Edipo non risolto, che subito tac, la televisione ci fa il programma. Oh, il programma preferitissimo mio è quello di questi che accumulano la monnezza dentro casa, che poi dopo tu per andare al bagno devi andare alla fermata del 913 dietro all'edicola. In questo programma la gente viene a casa tua e ti chiede se può buttare la collezione dei denti da latte del cane tuo morto, che tu la tieni dentro al thermos del tè, o se proprio non la vuoi buttare, se la possono provare a dare via, se la possono provare a vendere su internet, se la possono provare a dare ai poveri. I poveri ci hanno sempre bisogno, sono persone dai desideri smodati. un altro programma preferitissimo mio è quello delle spose che si devono cercare il vestito da sposa e allora vanno nei negozi di abiti nuziali con la madre, dove lì vivono dei momenti tragici in cui di solito piangono. Beh, dico io, certo, perché quei vestiti fanno venire la pulsione di morte, perché se c'hai i braccioni non te puoi mettere il vestito col corpetto senza le maniche, perché sembri la salama da sugo del cenone del Capodanno, te credo che ci piangi. Oh, ultima folgorazione televisiva mia è quella che ti dipinge casa male. Arriva questa a casa tua vestita da Super Mario con la fissa di ridipingete casa, lo sguardo da bambina di Satana. Lei prende gli oggetti di casa tua, lei li vuole riutilizzare. Hai un appendiabiti? Ce l'hai? È brutto, lo ricopriremo di pasta di pane e ne faremo una fontana per le colombe. Hai un armadietto in bagno? Ce l'hai? E fa schifo, ne faremo un'urna cineraria di famiglia. Questo per dire la televisione, l'arte, la cultura, la bellezza, la poesia. Poesia! Ristorante cinese che sempre regali stupende sorprese di fritti, che mescoli salse, ravioli e soffritti di oli malsani. Ristorante cinese, mi ami? Io sì, perché con i soldi di questo Natale da te pranzerò e cenerò col maiale agrodolce. Ristorante cinese, che unto, ti penso, ti imploro, ti spero congiunto al mio cuore. Ristorante cinese, ora basta, per sempre il regalo, il mio folle amore. Cuoro, unica voce veramente autonoma di questo paese alla quale potete fare un bonifico. Lo potete fare un bonifico. Lo potete fare. IT 7426 9853 00000 sono 5 4217. Cuoro adesso fa un gioco. Il gioco è semplicissimo, consiste nel fatto che io getto delle cose e voi le prendete. Perché? Perché adesso è estate ed eccoti qui, amica del mare, che sbrini la cavigliera da fricchettona, che ripassi i passi della pizzica per l'ennesima notte della taranta, che già ti immagini danzante con una brutta gonna de cotone indiano alla ricerca di 10 minuti di petting tra la polvere e le birre a un euro. Non ti preoccupare, no, perché quest'anno Cuoro trasformerà la tua estate da quel ricettacolo di infezioni delle vie urinarie e micosi delle unghie in un'estate meglio. Perché? Perché il problema non è il segno della canotta, l'ascella pezzata, prendila, una portala al mare, la tracina, la medusa. Il problema è che devi dar fuoco alle Birkenstock. Le Birkenstock. Ciabatte. Da sempre usate a sinistra a indicare che sei comoda e disinvolta, ma anche impegnata nel sociale. Ecco, ecco, le Birkenstock non cadono bene su nessuno. Su nessuno. Non cadono bene sui maschi, ai quali conferiscono un'andatura da frate trappista, e non cadono già mai bene sui piedi delle femmine. Dice: no, vabbè, ma chi c'entra? Ma non mi tocca le Birkenstock. Ma tu non ti devi fare ingannare dal modello a fiori, quello intrecciato, quello verniciato, quello da portantina del Forlanini. La sostanza non cambia e Via del Corso non è un sentiero del Cammino di Santiago. Che cosa stai facendo? Stai finendo l'Interrail che va in giro con le ciabatte? Che stai facendo? Stai facendo le candele con la cera autoprodotta? Stai raccogliendo le nespole per la marmellata bio? Ma soprattutto stai al campo scout? No, no, tu mi stai in fila davanti alla posta, io devo vederti, devo vivere alla mercé dei tuoi piedi sgraziati e mortificati, perché tu hai scelto la via dell'impegno civile e quindi stai rilassato, infatti stai in ciabatte. Dice: no, madonna quanto sei pesante, ma che cosa c'entra? Io quelle le abbino con le gonnelline. Ma allora non ci siamo capiti. sembrano pinne, sembrano poggiapentole però da piede, poi saranno pure comode ma belle no, e se le sdoganiamo, allora sdoganiamo anche le scarpe da scoglio di plastica col carro armato sotto, che almeno con quelle, se ci vai nei centri commerciali e stanno a dallo straccio, almeno con quelle non ci cadi. Dice: oddio, ma guarda che tu veramente sei da giramento di testa, che pesante, io me le metto perché così almeno il piede mi respira, no? E no, e no, perché il pelo di cui è ricoperta la suola col peso del piede sopra si impregna, sa calora e sai di cane morto. E allora tu, che nella vita hai dovuto pagare le persone perché ti rivolgessero la parola, non ti lamentare seppure quest'estate vai a cambiare l'acqua ai fiori del Verano insieme agli amici tuoi scout come vacanza, non ti lamentare. E poi basta con queste smanie da escursionista della tangenziale, lavatevi i piedi, fatemi vive, piuttosto ai piedi mettete invece i rollerblade, più California, meno Monaco di Baviera. E che cos'è? Ma non finisce qui, perché ogni anno a primavera la moda fa nuove collezioni e ricomincia il tormento, sempre uguale, sempre quello, il ritorno dei colori pastello. Infatti, come ogni anno all'arrivo della mezza stagione, noi veniamo soverchiati nelle vetrine dei negozi dove compriamo i nostri soliti quattro stracci misto acrilico da un affollamento di indumenti dai colori pastello. Essi colori sono aragosta, verde acqua, giallino. Tutti i colori che andavano molto di moda l'anno in cui Ridge chiese la mano di Caroline a un cocktail party, quel periodo in cui gli anni Ottanta erano finiti ma non rinunciavamo alle spalline e a quel volume nei capelli che ha dato tanto lustro a Rosanna Lambertucci l'anno che dovevamo fa tutti la dieta sua. Ma la domanda è: a chi donano i pantaloni giallini? A chi? A quale donna? A chi? Alle laureande di sociologia? Alla nazionale cinese di ginnastica ritmica? Alla madre dei gracchi, faccio per dire, no, alle infermiere del San Camillo. E perché? Perché questi sono i colori tipici del personale ospedaliero. Serve un'ostetrica? Ecco, la riconosci perché è vestita di verde. Un paramedico, un dentista, di nuovo col verde. Un'infermiera? Giallina. E subito la primavera ci trasforma in una brutta puntata di una fiction sui medici, in cui però tu, vestita color aragosta, non sembri una dottoressa diafana di Grey's Anatomy, ma un porco di mare. Fine del gioco. Poi comunque, amici dei paesi esteri che ci vendete i vestiti, ma che cos'è questo vezzo di autogenerarsi i problemi? Che cos'è? È l'Europa che ce lo chiede? Sono le scie chimiche? Gli UFI? Poesia. Babbi natali sudati, appesi ai balconi. Babbi natali cafoni, che senza il rispetto delle grondaie si spalmano arditi a guardar le massaie purine. Babbi di pezza consunta assisi nell'aria bisunta del fritto cenone animale natale. E allora un grido si innalza di tanta bruttezza che avanza, mi dolgo, vi prego, signore del volgo rispetto. Al mondo v'è tanta miseria, il bello ha perduto la rima, torniamo, vi prego, a prima. Lasciate l'obeso a riposo, non più nell'inerpico ascoso, a diritti. Gioite dei bei vecchi addobbi, brindate sugli alberi dritti. Oppure petate. Già crasse, ripiene, sdraiate all'ombra di languidi fritti. E dopo Natale arriva l'anno nuovo, ma purtroppo noi non sappiamo cosa ci riserverà l'avvenire. All'uomo non è dato sapere cosa gli accadrà, e per questo, per prevenire le mosse dell'umorista che tutto governa, l'uomo ha inventato diversi modi per prevedere il futuro. Primo fra tutti l'oroscopo. Adesso Cuoro ti dice che cos'è l'oroscopo. L'oroscopo è un insieme di segni a forma di cose che rimandano ad altre cose e che serve a farti venire il fegato amaro tutti i giorni della vita. Infatti infatti l'oroscopo, ogni giorno che Dio manda in terra, ti dice la sua su quello che ti deve capitare e quello che non ti deve capitare. Così, se tu volevi stare tranquillo, invece no, vivi nell'ansia che ti deve capitare una cosa o che non te ne deve capitare un'altra cosa, e nell'attesa dal nervoso ti mangi pure la guaina dello sportello del frigo. Oh, un altro fatto importante dell'oroscopo è che l'oroscopo funziona così, che se sei pesce è l'anno del toro, se sei gemelli è quello della vergine, se sei leone è l'anno dell'acquario, se sei acquario è l'anno del sagittario, sagittario è l'anno del capricorno, capricorno è l'anno della bilancia, ma se sei cancro ed è l'anno del cancro non ti preoccupare, perché Dio ti manda l'ascendente, così ti ricordi che devi morire. Oh, un altro modo di prevedere il futuro sono i tarocchi. Adesso Cuoro ti dice cosa sono i tarocchi. I tarocchi sono queste carte con sopra disegnate delle figure che ti devono dire di che morte devi morire, però tu prima gli devi fare una domanda e loro subito ti rispondono che quello con cui stai ti mette le corna. Pure se tu eri andato a chiedere, che ne so, come fare a migliorare la ricetta dell'anatra arrognata, che non ti viene più tanto bene, ecco, loro ti dicono che quello con cui stai ti tradisce, così te impari a chiedere. Altro modo di farsi prevedere il futuro è quello di farsi leggere i fondi del caffè. Adesso Cuoro ti dice come si fa a farsi leggere i fondi del caffè. Prendi la macchinetta, apri la macchinetta, prendi il caffè, metti il caffè, chiudi la macchinetta, accendi il gas, metti la macchinetta, esce il caffè, prendi la tazza, versi il caffè, bevi il caffè, poi guardi la marana di fondi che si deposita sul fondo della tazza. Poi devi chiamare uno con una patologia allucinatoria e gli devi chiedere quello che ci vede, e lui di solito ti dice che ci vede o un utero gigante o un fallo gigante. Allora lì tutti a ridere e a bere gli psicofarmaci direttamente dalla boccetta, direttamente dalla boccetta. Ecco, ultimo modo per prevedere il futuro lo faceva sempre un'amica mia che è stata buddista 10 minuti. Essa, amica mia, ti leggeva le fate. Le fate sono delle carte con sopra disegnate queste donnine mezze nude con i rovi in testa e tutte le falene addosso, che tu gli chiedevi: che devo fare col lavoro? Oppure: lo troverò l'amore? E loro ti dicevano sempre: no, ma fatti una vacanza, vai sul lungomare di Follonica, rilassati, costruisciti una capanna con dei giunchi, beviti una tisana, stai tranquilla, stai tranquilla, stai tranquilla. Allora tu, per non sapere né leggere né scrivere, ti bevevi mezzo litro di mirto, che comunque è una cosa naturale, sarà uguale, ecco. Questo per dire il futuro. Ma noi sul futuro non possiamo intervenire, noi possiamo intervenire solo sul presente. La bellezza, il presente, cosa c'è di più bello e di più calato nel presente dei giovani? Adesso Cuoro vi parlerà dei nuovi giovani. I nuovi giovani sono quella cosa che si inventa le mode, e adesso il giovane si è inventato la moda che devi sembrare Derrick nelle prime puntate di Derrick, nel look. Poi ti devi fare le foto col filtro giallo cane, poi devi farti crescere la barba da kiwi e i baffi da ottone terzo di Pannonia. Questo per quanto riguarda i maschi. Per quanto riguarda le femmine della moda anziani degli anni 70, invece tutte a sfoggiare quell'ale da perdigiorno, un po' svagata, come se ci fosse sempre una farfalla da inseguire, un pappataccio da curare, una ballerina da indossare, ma tutto molto bon ton, a nascondere certe brame perverse che hai di una mandria di corpi di maschi ignudi che ti si arrampica sui lombi vogliosi. Quindi è inutile che ti ascolti i dischi con le cuffie da educanda disagiata, quando dentro c'hai il desiderio de meccanico Fiat. Se vede, non è che non si vede, se vede. Un altro fatto molto importante di questa nuova moda dei giovani vintage con brio è che devi andare a scassinare le cantine di pora nonna, a recuperare certe cose vecchie che nessuno le usa più, e invece adesso tutti a redarci casa. Allora via l'inalatore per l'aerosol degli anni 70 e le gonne sotto al ginocchio di zia quando andava alle medie dalle Clarisse, oppure certe camicette a pallini o a fiorellini o coi fiori di zucca, a indicare che tu sei tenera, ma ti piace anche un po' ridere, eh? Ti piace ridere. Ma che cosa ti ridi? Oh, poi dice pure che dietro a questo fatto di vestirsi come nella ex Jugoslavia c'è tutta una cultura di leggere, di fotografare, di vedere i film. ma a cuoro non interessano i contenuti, essendo che invece è molto importante coltivare un'attitudine moralizzatrice per la quale tutto ciò che è nuovo ci genera lo spavento, così possiamo andarci a rinchiudere nelle nostre torri d'avorio a guardare le repliche di Nonella Rai, a giocare col crystal ball, a rimpiangere la spuma in Venta Ricci. Altro fatto importante dei ragazzi chic col problema del vecchio è che devi portare gli occhiali. Sì, non gli occhiali normali, no, quelli con la montatura spessa, ricavati dalla fusione della canna fumaria di casa, perché ti danno quell'aria introversa da genio profondo e svogliato, a simulare una vita interiore mentre i neuroni te giocano a Pac-Man nel lobo frontale. Si vede, eh? Si vede, non è che non si vede, si vede. Ma non ci dimentichiamo delle giovani anziane tenerelle patinè. Esse giovani anziane tenerelle patinè sono tutte figlie della madre di tutti i problemi del mondo. Essa madre è Amélie. È la storia di questa persona con un grave ritardo della psiche, con la fissa di fare le cose matte, tutti a dire quant'è particolare. E allora tutti a farsi le foto con gli occhi all'insù, a parlare coi nani, a vivere nella felicità delle cose piccole, a fare della propria vita un insieme di teneri appuntamenti nevrotici in cui sei particolare, che sei così particolare, che guarda quanto è particolare, che sei così particolare, che madonna quanto è particolare, che guarda quanto è particolare, che è meglio che sei da sola, bella, ciao, vai a fare le foto di te che ti fai le foto davanti allo specchio del bagno. Comunque, non è che con questo cuoro ti vuole dire se devi o non devi essere un hipster, ognuno faccia quello che ritiene più alla moda fare, basta che non ricominciate a leggere Il Piccolo Principe, a sottolineare le frasi che l'essenziale è invisibile e qua e là, perché a uno gli viene lo scoramento, la sfiducia nel prossimo, la voglia di rimandarlo a casa dai genitori questo ragazzino biondo, perché come ti viene in mente di andare in giro per le galassie e poi venire qui a fare la morale a noi che ci abbiamo Matteo Renzi mandati a Berlino a esportare Tangentopoli. Poesia. Merendino spezza fame, il più bello del reame tra i cibari. Merendino non hai pari, se ti mangio al pomeriggio poi la sera non mi ingozzo di formaggio 100 chili. Merendino, tu mi privi della fame delle 5, quella delle 11:30. Merendino che accontenta tutti quanti. Merendino, tu fra i tanti mi rispetti coi tuoi occhi marmellati, i granelli, i cioccolati, mi ricordi che io esisto. Merendino, mi rattristo se ti neghi, vieni qui, niente di neghi, si è già fatta ora del tè. Io ti cerco nella borsa, vado, frugo, provo, forza, vieni fuori. Merendino, che dolori, non ci sei, io ho la fame. Merendino gretto infame, che mi mangio? Mangio un pezzo di divano? Un ombrello, la mia mano, un pedalino? Merendino, che disfatta, per la tua tremenda fuga io mi mangio la lattuga senza niente, merendino deficiente, pah! Fa schifo! Mordo un culo. Mi dispiace, cari astanti, io c'ho fame. Queste chiappe morbidone mi sollevano il morale. Merendino, poco male, per fortuna sei sparito. Ho trovato la mia via. Se mi sento che ho la fame e non ho niente, io da oggi mordo i glutei della gente. Lo sai qual è il problema? È l'infanzia e quindi i genitori li ricordiamo perché ci generano i primi disagi, per esempio l'ansia, l'angoscia, il sovrappeso, Le fisse. Io per esempio la fissa di fotografare i fornelli del gas prima di uscire di casa per vedere se l'avevo spenti veramente. Brutto. Comunque alla fine la devi superare questa cosa dell'infanzia, devi andare avanti nella vita nel tentativo di essere felice. Sempre che non incappi negli altri, perché gli altri sempre entrano, fanno, brigano, spaccano, rompono, tu ti devi arrabattare a sopportarli malvolentieri, alla fine diventi uno che ognuno fanno come può. Bene, sono felice, ho detto la mia. No more tears, my heart is dry, and I don't laugh and I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. You just came out of my door and leave me like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the story that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the story that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. No more tears, my heart is dry. Go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sharp, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'd be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame. Stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. I said, one day, baby, we'll be old. Oh, Think of all the stories that we could have told.